Mi chiamo Valentina, ho 32 anni, vivo in una città a Chiari, in provincia di Brescia, e sono un'esperta offshore work.